Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La tregua in corso a Gaza fa riunire una famiglia palestinese a Trieste. Per primi, a fine aprile, erano riusciti a salire su un volo umanitario una madre con la sua bimba malata, ma la donna, incinta, proprio sull'aereo partorì la seconda figlia. Stamattina, l'arrivo del papà. Continuano ad essere sul piede di guerra i medici di base che anche in Friuli Venezia Giulia si oppongono al progetto di riforma che li vedrebbe inseriti nelle aziende sanitarie quali dipendenti. Ieri a Roma si è svolto un incontro sul tema. Mugugni fra i pubblici esercenti a Trieste, dove oggi entra in vigore l'ordinanza che chiude i locali a mezzanotte. La misura vuole arginare i fenomeni di degrado e di violenza, soprattutto giovanile, ma finisce, dicono gli addetti ai lavori, anche col danneggiare gli affari delle attività virtuose e corrette. Una truffa romantica online ha ingannato una donna che ha perso 25.000 euro credendo di aiutare Brad Pitt in un progetto per la difesa degli animali. Le app e la tecnologia permettono di creare identità false e convincere le vittime a versare ingenti somme di denaro e quindi le truffe sono sempre più difficili da riconoscere. La legge è al lavoro per proteggerci. Remo Anzovino celebra i suoi primi 20 anni di carriera, lo fa con l'uscita di un nuovo album, Atelier, che raccoglie brani rivisitati e registrazioni live in un luogo speciale, l'atelier di Celiberti a Udine. Il racconto di questo ventennio fra le note nell'intervista che vi proporremo nel corso del giornale radio. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Caiazza. Un incontro commovente quello avvenuto stamattina all'aeroporto di Ronchi fra un papà arrivato da Gaza e le sue bambine a Trieste dalla fine di aprile, quando erano arrivate in città assieme alla giovane madre. La donna, incinta, affrontò il viaggio per curare Giulia, ammalata, ma nell'aereo in volo dall'Egitto le si ruppero le acque e nacque Maya. Dopo l'inizio della tregua, l'uomo ha potuto venire a rivedere la sua famiglia. All'aeroporto di Ronchi dei legionari è sbarcato puntuale alle 10.25 e subito l'abbraccio più intenso è stato quello con le figlie, la sua Giulia e poi la piccola Maya che non aveva mai visto prima, ora a 9 mesi, tanto quanto il tempo che ha separato questo padre, Mohamed, dalla sua famiglia scappata da Gaza ad aprile dello scorso anno e arrivata a Trieste attraverso i corridoi umanitari. La piccola Giulia, affetta da una grave malattia, è in cura all'ospedale materno infantile Burlo di Trieste. Maya invece è nata qui proprio il 30 aprile, il giorno del loro arrivo. Alla mamma, Wehan, si erano rotte le acque in volo. Al padre Mohamed non era stato concesso di seguire la moglie e si è rifugiato in Egitto. Da allora ha atteso questo giorno. Arrivato a Trieste stamane grazie al lavoro diplomatico della comunità di Sant'Egidio di Trieste e dell'associazione umanitaria Gaza Kinder Relief, impegnata proprio nelle evacuazioni mediche. Weham ha accolto il marito con un mazzo di 9 rose rosse, proprio quanti sono i mesi che l'hanno separata dal marito. Qualche parola d'italiano l'ha imparata. Noi siamo a casa dove appunto è ospite grazie all'associazione Io Tifo Sveva in un appartamento. Wehan, quanto è felice? Sono molto felice. A lot of gratitude for la comunità di Sant'Egidio, lei è grata all'associazione. I have a lot of thanks for them. If they don't help me, I don't saw my husband now. I don't feel what I feel now. Thanks. Dice che è davvero fiera e felice di quello che l'associazione le ha dato. And then? I say thanks more than thanks to make me feel this feeling. Grazie per avermi fatto sentire tutta questa felicità, li ringrazio. Grazie mille Paolo, Federica, also Andrea, Tiziano, Deletta, the all. Where do you see your future? Dove vedi il tuo futuro? I don't know anything about my future because no one he know what. Non so quale sarà il mio futuro. No one he know what will happen in Gaza, what's the future in Gaza. Il futuro also, in Gaza non lo, nessuno lo sa. Also about my girls, I don't know when they be fine. I don't know how. Quando le ragazze saranno davvero a posto, non lo so ancora. Quando le mie figlie staranno bene. Also, I don't know how much Giulia she will have the treatment. So I don't know when I will return to Gaza, when I will saw my family. But you wanna go back? Sì, for sure. Non so ancora quando potrò tornare. Quando mia figlia sarà pronta a tornare, ma sicuramente voglio tornare a casa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua a essere di attualità il tema dell'inquadramento dei medici di famiglia come dipendenti del servizio sanitario. Il progetto è stato esaminato nuovamente ieri in un incontro tecnico fra le regioni e il Ministero della Salute. In fibrillazione le organizzazioni sindacali dei medici di base, anche nella nostra regione, mentre tornano a mobilitarsi per il contratto le organizzazioni mediche della sanità pubblica. Si continua a parlarne con insistenza anche a livello nazionale, ma ancora un documento ministeriale ufficiale non c'è. All'ultimo confronto di ieri a Roma tra Regioni e Ministero della Salute, senza entrare nello specifico, c'è stato un accenno sull'ipotesi di un provvedimento per la dipendenza dei medici di famiglia dal sistema sanitario nazionale, su cui, da quanto si apprende, le Regioni hanno concordato. Nel dettaglio si entrerà le prossime settimane, quando ci sarà un incontro anche col Ministro della Salute Schillaci. Interpellato, l'assessore alla salute Riccardi per ora non commenta. Dal fronte sindacale, invece, si conferma la netta contrarietà a questa ipotesi, che sta creando forte fibrillazione tra i professionisti. Ribadisce che si tratta di una fuga in avanti con messaggi a mezzo stampa ai sindacati e alla categoria, ma che non c'è nulla ancora di concreto su cui discutere. Il presidente regionale dello SNAMI Vignando, pur dichiarandosi aperto a qualsiasi soluzione possa migliorare l'assistenza primaria ai cittadini e le condizioni di lavoro dei professionisti sempre più oberati dalla burocrazia, Vignando esprime forti perplessità sulla fattibilità di questa, che definisce una fantasiosa pseudo-riforma della medicina di famiglia. Si tratta di una forzatura, ripete anche il segretario regionale della FIMG Agrusti, per il quale, se l'ipotesi passasse, stravolgerebbe il decennale rapporto medico-paziente, che si fonda sulla prossimità e sulla fiducia, e soprattutto allontanerebbe dalla professione i giovani medici, mentre quelli pensionabili lascerebbero subito, aggiunge. Si attendono aggiornamenti dal Consiglio nazionale della FIMG di sabato a Roma, ma già i sindacati si dichiarano pronti allo sciopero, con anche il coinvolgimento dei cittadini. Di nuovo, intanto, sul piede di guerra le organizzazioni mediche della sanità pubblica, che sempre sabato nella capitale hanno dato appuntamento a tutti i camici bianchi, medici di famiglia compresi. Insieme all'Ordine Professionale Nazionale decideranno nuove forme di mobilitazione per il rinnovo del contratto e l'apertura di un tavolo ministeriale permanente che dia loro voce. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Entra in vigore oggi l'ordinanza con la quale il Comune di Trieste intende bloccare disordini e schiamazzi notturni, imponendo la chiusura dei locali pubblici alla mezzanotte. Fino al 31 marzo, all'interno del perimetro delle tre zone rosse di Trieste, che si focalizzano attorno a Piazza Libertà, Via Ghega e Piazza Oberdan, e poi Piazza Verdi e Molaudace, e quindi da Piazza Goldoni attraverso Largo Barriera, che era stata teatro della violenta rissa alle 7 di sera, fino a Via Donadoni e Via Manzoni, Viale D'Annunzio, passando per Piazza Garibaldi, entra in vigore l'ordinanza comunale che prevede la chiusura dei pubblici esercizi dalle 24 alle 6 e dalle 22 vieta il consumo di bevande in bottiglie o lattine, fatta eccezione per la consegna a domicilio da parte dei locali. Molti esergenti ci dicono che l'ordinanza non rappresenterà un cambio di orario. Luisa è titolare del bar di fronte alla stazione centrale, già la seconda volta che entra in zona rossa con gli orari ridotti, ma questo quanto vi complica la vita, se vi complica la vita? Non ci complica la vita assolutamente, perché noi chiudiamo alle 8 di sera, quindi non cambia proprio niente. Io sono qua da 3 anni e non ho mai avuto paura. È una zona, sì, no, non è piacevole a certe in certi orari venire qua, perché si vedono i clandestini, i barboni, questo sì, assolutamente non è bello da vedere, ma non danno fastidio, quindi ci conviviamo bene. Comunque con noi orari non cambia tanto, perché il nostro locale chiude alle 8 di sera. Riguardo di questo, noi siamo comunque esclusi di questa novità. Evidentemente più tranquillo, perché ci sono le pattuglie in continuazione, però comunque, come per una persona normale vedendo la polizia, un po' angosciante comunque questa cosa. Io sono anziana e non vado molto fuori di sera, però oltretutto evito. Anche al teatro, che andavo di sera, adesso preferisco andare di giorno, perché purtroppo sono queste due zone, questa Larga Barriera, la piazza Perugino e la piazza Garibaldi, con lo scuro, adesso poi inverno, e quindi non mi fido tanto. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Accerchiata dal branco e aggredita da coetanei che hanno ripreso il tutto con i loro smartphone, vittima una ragazzina di 13 anni con 5 giorni di prognosi e ora in stato di shock. L'episodio è avvenuto la sera di sabato scorso nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Udine. Sta avendo vasta eco in Friuli la notizia dell'agguato e pestaggio ai danni di una tredicenne nel parcheggio di un centro commerciale dell'Interland udinese. Le motivazioni dei fatti tanto banali quanto usuali, la contesa per un fidanzatino. Gravi invece le modalità in cui si sono svolti. La ragazza accusata di rivolgere parola all'ex di un'altra adolescente è stata pedinata e all'arrivo al centro commerciale trascinata fino al parcheggio. Lì era già pronto il branco con tanto di supporter armati di telefonini per le riprese. Quattro le ragazze che si sono avventate contro la tredicenne per avere la loro presunta giustizia. Prima parole di insulti, poi si sono alzate le mani. La giovane è stata scaraventata a terra. Per alcuni atti mi pare abbia perso anche i sensi. Inequivocabili le ferite e contusioni al volto e alla schiena e, mentre i filmati dei telefonini già correvano in rete, la ragazza è finita al pronto soccorso, dove i sanitari hanno emesso una prognosi di guarigione di 5 giorni. I carabinieri di Udine hanno già copie dei filmati e un lungo elenco di nomi di chi ha partecipato al pestaggio. I genitori della tredicenne, infatti, non hanno voluto far passare sotto silenzio l'accaduto e hanno presentato denuncia all'ARMA, che sta visionando anche le telecamere di sorveglianza del centro commerciale. Ipotizzabile il reato di lesioni aggravate anche per il fatto che la vittima del pestaggio è ancora impaurita, non vuole più tornare a scuola e probabilmente pensa di non essersi meritata questo trattamento per il solo fatto di aver rivolto parola ad un ragazzo. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nuovo codice della strada, che fra le altre novità ha inasprito le sanzioni per chi guida dopo aver bevuto alcolici, avrebbe provocato un drastico calo dei consumi di vino. Se ne starebbero già accorgendo i ristoratori friulani. La bottiglia da portare a casa o piuttosto più taxi è una mobilità alternativa. L'invito è ad un consumo responsabile senza rinunciare al piacere di un calice. Bere meno ma bere meglio. Certo, però il nuovo codice della strada, con l'inasprimento delle sanzioni per i guidatori che superano il tasso alcolemico previsto dalla legge, scoraggia per ora i consumatori, con un calo, si parla del 20%. Sì, i clienti hanno paura, addirittura mangiano pesce con acqua. E l'amaro e il limoncello dopo cena? Zero. Finito. Sì, a parte qualche giovane che magari, devo dire, ben organizzato, creano la persona che guida, che quindi non beve, e loro si concedono. A preoccupare i produttori non sono tanto i numeri in questo momento, quanto gli allarmismi sulle nuove norme. Così le organizzazioni di categoria a difesa di una filiera importante propongono soluzioni. Martin Figel, Coldiretti, Friuli Venezia Giulia. Si parla tanto dei paesi nordici dove questa tolleranza zero è già da diversi anni, però la grande differenza tra, ad esempio, anche la nostra regione e il resto dell'Europa è che non c'è una rete adatta di trasporti alternativi che possono dare la possibilità di tornare a casa in tutta sicurezza. A Ruba, nelle farmacie, nei primi giorni del nuovo codice stradale, anche i kit per la misurazione fai da te dell'alcol ingerito. Matteo Favero. C'è stato un momento in cui non si trovavano dai grossisti, adesso devo dire che sono molto diminuite le richieste, si trovano i kit riutilizzabili, che però si parla di una spesa di oltre i 100-150 euro, invece i kit monouso al momento sono poco richiesti, ma si fa anche fatica a trovarli. Chiaramente questa cosa ha riacceso tutto il tema della guida e dell'utilizzo dei farmaci, tra cui la cannabis terapeutica e le benzodiazepine, che sono molto utilizzate, e non c'è grande chiarezza tra le persone su come comportarsi in questi casi. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche a Trieste si manifesta in segno di vicinanza agli studenti serbi scesi in piazza in tutto il paese balcanico per protestare dopo la tragedia avvenuta alla stazione ferroviaria di Novi Sad lo scorso 1 novembre, quando il crollo di una tettoia ha causato la morte di 15 persone. L'episodio è conseguenza della corruzione e della malversazione dello Stato, accusano gli studenti che da allora stanno occupando le università del paese. Da Trieste dunque un segno di solidarietà da parte di alcuni cittadini che si ritroveranno in Piazza Unità questo pomeriggio alle 16. Questo sabato saranno in vendita nelle principali piazze italiane le arance dell'AIRC, che è da 60 anni motore della ricerca indipendente e affronta le sfide ancora aperte per la cura del cancro. Le arance della salute, simbolo della prevenzione, oggi erano disponibili anche al CRO di Aviano, dove sono 5 le strutture che si occupano di diverse ricerche finanziate appunto dall'AIRC. L'AIRC celebra il 60° anno di attività in Friuli Venezia Giulia nel 2025. Quest'anno sono 21 i progetti di ricerca e 2 le borse di studio, con un investimento complessivo di 2.552.000 euro. A Trieste oltre 1.500.000 per 13 progetti e borse di studio divisi tra diversi istituti. Questo quanto riguarda lo spaccato di questi anni. All'Università di Udine sono 4 i progetti, mentre ci sono 6 dell'AIRC attivi al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per un totale di 613.000 euro. Siamo in compagnia dell'epidemiologo Luigino Dalmaso, che con l'AIRC, con i finanziamenti dell'AIRC, lavora già 15 anni per i suoi progetti di ricerca. Il dottor Dalmaso studia le caratteristiche delle persone che si ammalano di tumore e vivono molti anni a seguito di una diagnosi, dunque sono dichiarati guariti. Quali sono i principali esiti di queste ricerche in questi 15 anni? Gli esiti più recenti sono stati un'analisi fatta sui tumori del colon retto e della mammella per stadio di malattia, che hanno mostrato ad esempio che le donne diagnosticate con tumore della mammella in stadio precoce, quindi in stadio 1, che sono oltre la metà di tutte le diagnosi che vengono fatte, hanno una probabilità di guarigione di quasi il 99%, quindi quasi tutte le donne con diagnosi precoce fatta attraverso molto spesso lo screening, quindi seguendo le procedure suggerite dal Sistema Sanitario Nazionale, non hanno un eccesso di rischio di morire dalla malattia rispetto a chi non si è mai ammalato. Naturalmente devono seguire tutte le indicazioni di sorveglianza che il medico curante indica loro. Aviano, Eva Ciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Le trappole dell'intelligenza artificiale in cui non dobbiamo cascare, truffe da migliaia di euro, vittime gli anziani ma non solo. Come funzionano e che cosa scatta nella nostra mente in queste situazioni lo scopriamo nel prossimo servizio. Se ne è parlato tanto in TV, sulla carta stampata e sul web. La signora che si è indebitata per 25.000 euro pur di aiutare economicamente Brad Pitt, uomo profondamente innamorato di lei, i soldi sarebbero serviti per un progetto in difesa degli animali. Ovviamente era una truffa romantica, come ne sono sempre esistite, questa volta facilitata dalle app che, grazie all'intelligenza artificiale, permettono di abbindolare persone che frequentano la rete e i social e che finiscono per diventare, dopo un paziente corteggiamento virtuale, vittime di false identità o di identità rubate. È la cosiddetta tecnologia deepfake, profondamente falsa. Massimo Borgobello, avvocato del Foro di Udine, esperto di diritto informatico. I deepfake è uno strumento con cui si può falsificare praticamente qualunque tipo di situazione umana, dal volto alla voce, e che consente di replicare in maniera praticamente perfetta le fattezze o appunto il tono di voce di chiunque. È facile giudicare a mente fredda il gesto di chi versa migliaia di euro a perfetti sconosciuti, pensando magari di fare del bene. Ma andiamo oltre, cerchiamo di capire come funzionano queste truffe. Siamo tutti a rischio? Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all'Università di Trieste. Ma direi di sì, proprio perché il nostro approccio alla realtà è sempre incompleto. Ogni volta che noi dobbiamo prendere una decisione, ci basiamo sempre su degli elementi che sono accertati di verità e su altri che sono verosimili. Noi, per tenere basso il rischio di sbagliarci, perché noi in qualche modo completiamo questo quadro di informazioni che abbiamo, di solito ricorriamo a 3 canali. Il primo è approfondire un po' di più, quindi acquisire maggiori informazioni. Il secondo è basarci sulla nostra esperienza, cioè su qualche cosa di simile. E il terzo, appunto, è ricorrere a delle reti, alle reti di relazioni che ci possono aiutare. E allora, che armi abbiamo in mano per difenderci da queste truffe? La prima cosa che dovrebbe indurre in allarme una persona che può essere oggetto di truffa è la richiesta di denaro. La richiesta di denaro è sempre un elemento rivelatore di un problema. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a proposito di truffe, attenzione a quella che sta circolando in questo periodo online, camuffata da campagna di viaggi a basso costo sugli autobus di TPL-FVG in Friuli Venezia Giulia. I link presenti sui social portano a siti falsi dove vengono richiesti i dati della carta di credito, che poi vengono rubati. La truffa cambia nome frequentemente, ma le autorità sono al lavoro per fermarla. Si raccomanda dunque di fare affidamento solo sui canali ufficiali di TPL-FVG e di acquistare abbonamenti esclusivamente tramite il sito ufficiale abbonamentionline.tplfvg.it. La pagina del tempo, cielo coperto sulla nostra regione, queste le temperature: a Trieste 10,5 gradi, a Gorizia e a Udine 8 gradi, 7 gradi a Pordenone, a Tarvisio 5,5 gradi, a Tolmezzo 4,5 gradi, 3 gradi a Forni di Sopra, 2 sul Piancavallo, 1 grado a Sappada, in quota sul Monte Lussari 1 grado, sullo Zoncolan 0 gradi, e tornando sulla costa a Grado e Lignano 8 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio cielo coperto con piogge residue sulle zone orientali che a Trieste proseguiranno fino a sera e saranno più consistenti. Nella notte possibili nebbie, uno sguardo anche su domani, su pianura e costa cielo in genere nuvoloso con possibili nebbie di notte al mattino, sui monti tempo migliore con cielo variabile e prevalenza di sole, stiamo parlando di domani, prevalenza di sole verso il cadore e in giornata nel Tarvisiano. Ha scelto Pordenone lo scrittore svedese Björn Larsson per la prima presentazione in Italia del suo nuovo libro Filosofia minima del pendolare, edito da Iperborea, in uscita il 29 gennaio. L'autore pluripremiato, traduttore, filologo, docente universitario, uno degli autori svedesi più noti anche in Italia, sarà giovedì 6 febbraio alle 20.45 nel convento di San Francesco in dialogo con Claudio Cattaruzza, curatore del Festival Dedica. 20 anni di carriera tra le note per Remo Anzovino, compositore e musicista pordenonese, che celebra questo importante anniversario con un nuovo album, suonando per 3 serate a partire da domani nell'atelier dell'artista friulano Giorgio Celiberti, dove i brani sono stati registrati. Sentiamo da Anzovino come è nato questo progetto artistico. Il disco Atelier, che esce su etichetta Decca per Universal, è un disco importantissimo perché fissa i miei primi 20 anni di musica. È veramente eccezionale il fatto di averlo registrato, infatti il disco si chiama Atelier, nell'atelier del maestro Giorgio Celiberti, grande pittore, grande scultore. La storia di questo disco è veramente magica, nel senso che io avevo saputo che il maestro aveva il desiderio che io suonassi la mia musica nel suo studio, e lì ho avuto l'intuizione di non limitarmi ad andare a fare una serata, ma di registrarci dentro un disco, perché avendo scritto credo 13-14 colonne sonore per i film dedicati ai più grandi artisti del mondo, da Van Gogh a Frida Kahlo, e amando tantissimo l'arte di Celiberti da tantissimi anni, mi sembrava assolutamente straordinario legare questa sensibilità mia della traduzione in suono dell'arte con un grande artista come Giorgio Celiberti in un luogo magico. Noi facciamo 2 serate che si sono rivelate irripetibili, le abbiamo registrate, da quello abbiamo ricavato questo disco, 21 pezzi, che ripercorre sostanzialmente la mia carriera, con versioni però piano solo, completamente diverse dagli originali, e questo inedito che apre il disco Chaplin, che è una pagina che avevo dimenticato 20 anni fa in un quaderno, quando musicai dal vivo Il circo di Chaplin, grande capolavoro di Charlot. È tanto difficile dopo 20 anni avere ancora una vena creativa, perché uno dei punti chiave del musicista è sapersi rinnovare proponendo cose nuove. Io effettivamente in questi 20 anni, tra dischi di studio e album ufficiali di colonne sonore per il cinema, ho pubblicato 22 album. È veramente una grande fortuna aver avuto editori e discografici che mi facessero pubblicare e producessero la mia musica. No, non è difficile, perché la differenza la fa se studi ogni giorno la musica, la composizione, il tuo strumento. Non c'è giorno della mia vita che non sia dedicato allo studio di una partitura, di un disco, di un quartetto per archi, allo studio tecnico dello strumento. Nuovo attesissimo appuntamento al Teatro Verdi di Pordenone, dove questa sera alle 20.30 arriva il pluripremiato spettacolo Overload sull'inquietante rapporto tra mondo reale e realtà virtuale in tempi come quelli presenti di bombardamento mediatico. In scena la compagnia Sotterraneo. Si tratta di una rappresentazione che è un autentico esperimento di ipertesto teatrale in una continua interazione tra pubblico e attori sul palco. Capiamo di che cosa si tratta con l'autore dello spettacolo, Daniele Villa. Overload è uno spettacolo su come la rivoluzione digitale sta cambiando i nostri processi di attenzione e di pensiero profondo, e l'interazione che abbiamo proposto crea una sorta di drammaturgia a ipertesto, ovvero al centro dello spettacolo c'è uno scrittore piuttosto noto, che è David Foster Wallace, che vuole raccontarci alcune cose, ma il pubblico può, attraverso dei segnali che i performer offrono, semplicemente, se anche uno solo degli spettatori si alza in piedi, far irrompere dei contenuti nascosti, quindi farci cambiare scena, farci spostare su un'altra immagine, un'altra visione, una specie di gioco di complicità critica che noi proponiamo al pubblico per riflettere sulle trasformazioni che attraversano la nostra società e il modo che abbiamo oggi di trasmettere le informazioni e la cultura, quindi ovviamente coniugando una riflessione di tipo profondo, critico, con un meccanismo fortemente ironico e che coinvolge direttamente il pubblico. Torna sul podio dell'Orchestra da Camera di Pordenone il maestro inglese Ben Palmer. Sarà lui a dirigere il concerto di stasera all'Auditorium Concordia, nel capoluogo della Destra Tagliamento, alle 20.45. Sul palco, in veste di solista, la musicista Rossana Calvi, primo oboe dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, oltre che applaudita interprete e camerista in molte formazioni nazionali ed internazionali nei più importanti teatri d'Europa. In scala musiche di Strauss e Beethoven. A Trieste, al Teatro Bobbio, la Contrada propone la commedia Amanti, scritta e diretta da Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Uno spettacolo brillante e divertente sull'amore, sul sesso, sul tradimento, sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, in definitiva sulla ricerca della felicità, che prende sempre strade diverse da quelle previste. Sipario alle 20.30, repliche fino a domenica. Alla Biblioteca del Consiglio regionale a Trieste, alle 15, sarà presentato il libro Lavoro e tutele nel sistema di prevenzione antimafia, scritto da Lorenzo Maria Dentici. Tornando a teatro, a Luigi Bon di Colugna, il concerto dello Smetana Trio con repertorio di Novak Suk e appunto Smetana alle 20.30. Sono le 12.56 minuti e 45 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Walter Vidonis e da Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.